Una casa con sorprese. Pim volava. Il suo cuore era leggero e felice. Si sentiva completamente connesso all'aria, agli odori e ai colori, alle nuvole e al cielo, agli uccelli e al fiume, ai pesci e agli animali, al prato e ai fiori e a ogni cosa che lo circondava. Aveva di nuovo la sensazione meravigliosa di vedere tutto con una chiarezza straordinaria. C'era una differenza però. Questa volta sapeva di avere una meta. Sapeva che stava andando verso la casa dove vivevano Alia e Kim. Ma l'avere una destinazione non gli procurava alcuna fretta. Pur essendo molto felice all'idea di andare a incontrare di nuovo i suoi nipoti, continuava a gustarsi pienamente il volo. E nel suo volare, spazio e tempo non avevano alcun posto, perché c'era tempo per tutto, perché era possibile godere il paesaggio e tutto ciò che conteneva, e allo stesso tempo andare serenamente verso la meta. Pur essendo in contatto con tutto quello che lo circondava, Pim era totalmente concentrato sul volo. Aveva scoperto che per aumentarne la rapidità doveva solo distendere un po' di più ogni muscolo, allungare col respiro ogni giuntura. In posizione estesa, bastava un piccolo movimento delle mani per fargli cambiare direzione, alto o basso, destra o sinistra. Non aveva mai volato così veloce, e così in alto. L'aria frizzante gli massaggiava il volto. Scoprì la bellezza del freddo intenso a quella quota, e ammirò lo spettacolo della terra lontana giù in basso. Su una base di verde e di azzurro spiccavano tanti altri colori, intensi, soffici, brillanti, opachi. Quella tela variopinta emanava un senso di pace. Pensava di essere il solo a godersi quello spettacolo straordinario, ma capì, grazie a un pizzicore al centro della fronte, che un corvo reale, più nero di una notte senza luce, grande e maestoso, stava richiamando la sua attenzione. La voglia di giocare fu irresistibile. Pim iniziò a volteggiare creando cerchi nel cielo, piccoli, grandi, e in ogni direzione. Il corvo lo guardò ammirato e si alzò in volo. Grazie al freddo pungente, il loro volare creava scie luminose, simili a minuscole stelle di ghiaccio, che restavano visibili per pochi secondi. E né il corvo reale né Pim poterono resistere alla tentazione di infilarsi a tutta velocità, e allo stesso tempo, in quegli anelli. Quando fu il turno di entrare nel cerchio più piccolo, capirono che non c'era abbastanza spazio per entrambi, e che si sarebbero scontrati. Fu il corvo imperiale a rallentare allargando le ali. Cambiò direzione, salutò Pim col suo crocidare allegro, e si diresse veloce verso un punto nel cielo che aveva una luce diversa, soffice e attraente. Pim rispose allegramente al saluto. Capì che aveva ancora voglia di giocare e volle sperimentare qualcosa di nuovo. Decise di togliere energia al suo volare, in modo da provare l'ebbrezza di essere in caduta libera. Quel senso di vuoto gli portò il cuore in gola, ma invece della paura sentì chiaramente crescere dentro di sé sorpresa, pace e gioia. Mentre scendeva in picchiata riconobbe il fiume, e non poté fare a meno di andare a salutarlo molto da vicino, in modo da assaporare gli spruzzi d'acqua frizzante e pulita che entravano nel suo naso. Quel gioco gli piacque molto, ma il solletico nelle narici gli provocò un improvviso starnuto, che gli fece perdere l'equilibrio e il controllo del volo. Si trovò a rotolare rovinosamente e il suo corpo rimbalzò più volte sull'acqua. Un falco, che volava alto nel cielo, si immobilizzò e osservò la scena con aria serena e divertita. Fu grazie a quello sguardo senza paura che Pim capì di essere al sicuro, che non c'era nulla da temere in quel luogo, che ogni sperimentazione era senza rischi, che lì non c'erano errori ma solo esperienze. La foca, che aveva già incontrato nel suo primo volo, gli corse incontro saltando sull'acqua e facendo saltellare, in perfetto equilibrio, grosse gocce sul suo naso. A quella vista Pim sorrise. Aprì le braccia, ritrovò l'equilibrio e riprese il suo volo alzandosi in cielo per andare a salutare le nuvole, che risposero assumendo la forma di fiori, di cuori, o di stelle, con sfumature di un colore rosa, tenero e gentile. Mentre volteggiava in alto vide la sua casa. Il suo cuore si riempì di gioia, e si gettò ancora una volta in picchiata col desiderio di abbracciarla. Scendeva così veloce che l'aria gelata, a contatto con i suoi occhi, li fece lacrimare. Pensò che in quelle condizioni vedere chiaramente sarebbe stato difficile, quasi impossibile. E invece scoprì che le sue stesse lacrime avevano creato un bellissimo paio di occhiali da aviatore, con lenti di cristallo pulitissime, attraverso le quali poteva osservare tutto con grande chiarezza. Malgrado la grande velocità, atterrò dolcemente, ed ebbe subito la sensazione meravigliosa di una calda accoglienza. Sentiva di essere atteso, gradito, considerato, e importante, in quella casa. Era proprio bello farsi entrare dentro e godere fino in fondo quelle emozioni. Il bentornato della casa fu un fuoco scoppiettante, che si accese nel grande camino nel momento stesso in cui mise piede nel salone. La poltrona gli si fece incontro invitandolo ad accomodarsi, e non appena si sedette quella stessa poltrona ne creò altre quattro, che si sistemarono in un semicerchio intorno al camino. Davanti alle poltrone si formò un tavolo con sopra piatti e una brocca di ceramica bianchissima, con disegni di petali dai colori brillanti, che versò acqua fresca e profumata di limone in grandi tazze di cristallo trasparente. Bentornato mio aviatore. Ti preannuncio il tuo stupore. Oggi devi domandare. Tu sei qui per ricordare. Oggi devi raccontare. Siamo qui per ascoltare. Nuovi incontri qui farai. Presto il nuovo scoprirai. La voce della casa canticchiò queste parole, accompagnata da un sottofondo di musica jazz, mentre un pianoforte estroso, apparso a mezz'aria nella stanza, picchiettava ritmicamente sui tasti giusti. Pim si stava interrogando sul senso di ciò che aveva appena ascoltato, quando dalle scale trasformate in scivolo arrivarono, preceduti da una sonora risata, Alia e Kim. Che fossero loro non c'era dubbio. Ma erano cresciuti, e diversi, e di tanto. La loro risata era più piena, ancora tanto gioiosa, ma meno sottile. Questa volta vestivano con tute di jeans imbottite, di un azzurro intenso, molto belle nella loro semplicità. Erano tutti e due più alti, e Pim pensò che ora dimostravano 9 e 10 anni. I capelli di Kim non erano più biondi ma tendevano al castano scuro, e quelli di Alia erano sempre nerissimi, e ondulati, ma meno ricci e più lunghi. «Siamo tanto felici di rivederti», disse Kim. «Com'è andato il tuo volo questa volta?» «Bene. Molto bene, direi. Quando sono in volo è tutto così bello. Mi sento leggero e felice», rispose Pim con un sorriso. «Ma come siete cambiati voi due? Siete così cresciuti dall'ultima volta? Com'è possibile? Forse qui il tempo scorre più in fretta». «Assolutamente no», rispose ridendo Alia. «Questo posto non conosce né spazio né tempo, ma solo l'infinito e l'eterno. È per questo che possiamo scegliere a nostro piacere qualsiasi spazio e qualsiasi tempo. Qui c'è anche completa assenza di limiti, e possiamo creare tutto ciò che desideriamo. Il che rende questa dimensione non solo infinita, ma anche in continua espansione», aggiunse Kim. «Se dicessi che capisco perfettamente ciò che state dicendo, non sarei molto sincero», disse Pim. Fu allora che la casa decise che era arrivato il momento di intervenire. Con voce potente, accompagnata da tamburi, tamburelli e campanelli, iniziò a cantare. «Spazio e tempo, è un'illusione. Che ha però la sua ragione. Dualità, che parolone. Ma ha una bella spiegazione. Tu sei l'uno, e l'uno è te. Sei nell'ora, e tutto c'è». Il canto della casa si fermò. Ci fu un lungo momento di silenzio e Pim, che aveva trattenuto il respiro nel tentativo di concentrarsi per capire il significato delle rime della casa, si sentì finalmente libero di respirare profondamente. Dopo un po' iniziò un assolo di tamburello con campanelle che scandì il ritmo aumentando la velocità fino all'inverosimile. Seguì un nuovo momento di silenzio e poi la casa riprese a cantare, questa volta accompagnata da una fisarmonica il cui movimento, ritmico e ondulante, aveva qualcosa di ipnotico. «Vuoi capir dualità? Qualche esempio aiuterà. Mozzarella o cioccolata? Minestrone o un'insalata? Colorato o sbiadito? Un po' sciapo o ben condito? Tutto in terra è dualità, che vuol dir possibilità. Senza il due scelta non c'è, e la scelta tocca a te. Solo tu scegliere puoi, su decidi, cosa vuoi? Se tu scegli, puoi imparare. E se sbagli, puoi cambiare. Se non scegli e se non provi, non ti muovi e mai ti trovi. Tu sei qui per imparare, per giocare, e per volare. Tutto è a tua disposizione, per creare evoluzione. Questo è il senso della vita. E tu giochi la partita». Pim era molto attento e curioso. Pensò che quelle strane rime gli stavano infilando nella mente qualcosa su cui riflettere. Guardò Alia e Kim, e chiese: «Ma perché avete scelto di crescere, e di presentarvi così a questo nostro incontro?» «Abbiamo pensato al tuo desiderio di incontrarci e ci è piaciuta l'idea di mostrarci con un'età diversa», rispose Alia. «Lo faremo ogni volta che verrai a trovarci. In questo modo potrai vedere come saremo anche da grandi, e magari anche come saremo quando tu in terra non ci sarai più, perché sarai tornato in cielo». «Che idea bizzarra», esclamò Pim. Ci pensò un po' e poi aggiunse: «A dirvi la verità, comincio ad avere meno problemi con le idee strane, e questa addirittura mi piace. Sono molto curioso di vedere come sarete nel tempo che verrà. Questo posto mi piace tantissimo, proseguì. Avrei voluto ritornare qui prima. Ma non so ancora come iniziare il volo. So solo che mi trovo a volare. Mi piacerebbe molto imparare, e decidere io quando e come farlo. Sei nel posto giusto per realizzare i tuoi desideri, disse Kim. Volare è parte della nostra natura, affermò Alia. Il che vuol dire che non c'è niente da imparare, ma solo da rilassarci e ricordare. Sono sicura che se ti fermi a pensare, potrai ricordare che quando eri bambino volare era uno dei tuoi giochi preferiti. Poi, col passare del tempo, hai giocato meno. Ed è arrivato un giorno in cui hai messo da parte il gioco. E così, un po' alla volta, hai dimenticato di essere un ottimo aviatore. Quando è presente il dubbio, non c'è proprio modo di volare, aggiunse Kim. Quello che dite mi piace, ma non mi sembra del tutto logico, ribatté Pim. Sentendo quelle parole, Kim e Alia scoppiarono in una sonora risata. A essere solo logici non ci pensiamo proprio. La logica è importante, ma ha i suoi limiti, e qui non ci sono limiti. Me ne sto rendendo conto, disse Pim. Non c'è molto di logico qui. Questa casa ti fa sentire accolto e ti canta il benvenuto. Il fuoco nel camino si accende scoppiettando appena entri in salone. Il tavolo offre cibo delizioso, e guarda caso sa esattamente ciò che desidero in quel momento. E poi la poltrona, che quando ti ci siedi ti senti completamente rilassato. E che si trasforma, che si moltiplica. A proposito. Perché ci sono 5 poltrone se noi siamo solo 3? Ne sei sicuro? Chiese con un'espressione divertita Kim. Guarda meglio. Noi siamo proprio qui. Pim fece un salto e dalla sorpresa perse l'equilibrio. Per fortuna la poltrona centrale destinata a lui era prontissima ad accoglierlo, e si trovò sdraiato e totalmente rilassato a fissare intensamente le due persone che sedevano comodamente sulle poltrone che erano alla sua sinistra e alla sua destra, e che, Pim ne era certissimo, non erano lì un istante prima. A quel punto anche Alia e Kim si sedettero e fecero le presentazioni. Lei è Grisenda, e lui è Ximenes. Sappiamo che le nostre parole non avranno molto senso per te, ma Ximenes e Grisenda ti conoscono benissimo, e una parte di te conosce loro da quando sei nato, disse Kim. E da molto prima, aggiunse Alia. Ciao Pim. È vero che ci conosciamo da tante vite. Siamo le tue guide. Se si può essere molto anziano e mantenere allo stesso tempo un aspetto meraviglioso, forte, sereno, saggio, pieno di ottima salute e di energia da vendere, ebbene Ximenes conosceva quel segreto. I suoi capelli erano bianchi, folti, luminosi, tagliati cortissimi, e mettevano in risalto il suo viso abbronzato. Indossava un elegante completo grigio scuro, una maglietta di seta dello stesso azzurro dei suoi occhi grandi e luminosi, e scarpe da ginnastica dello stesso colore. Grisenda mostrava 20 anni, anche se dai suoi occhi traspariva una saggezza antica. Era molto bella, alta, sorridente, con dei capelli rossi che le arrivavano alle spalle. Indossava jeans scoloriti, scarpe basse argentate e un maglione leggero a collo alto, bianco come la neve. La casa, che per un po' aveva osservato la scena in silenzio perfetto, decise che era arrivato di nuovo il suo momento, e canticchiò una canzone, questa volta a ritmo di valzer. La sorpresa è cominciata, vi consiglio un'insalata. Che profumo delizioso, che sapore portentoso. Di pachino i pomodori, olive nere, olio e fiori. In quel preciso momento il soffitto del salone sparì. Il cielo stellato era ora parte integrante della scena. Un vento fresco e profumato avvolse ogni cosa portando leggerezza e gioia tutt'intorno. La casa riprese il suo canto. Lui, che guardi un po' sorpreso, è chi sempre ti ha compreso. Lei, che siede alla tua destra, è sorella e tua maestra. Quelle voci han sussurrato, tante volte ti han parlato. Molto spesso ti han guidato, il tuo cuore hanno toccato. Mentre Pim si stava interrogando sul senso di quelle parole, sul tavolo apparvero 5 coppe colme di insalata e un vassoio pieno di fette di mozzarella di bufala, decorate con foglie di basilico profumato, sistemate sopra grandi fette di pomodori rossi e gialli, maturi al punto giusto. Pizzette bianche appena sfornate, calde e profumate, completavano l'opera. È l'ora dello spuntino. Buon appetito, dissero Kim e Alia. Fermiamoci un momento. Poi, a pancia piena, parleremo meglio. Fu un pasto delizioso, e tutti mangiarono con gioia e senza fretta. Quando ebbero finito, piatti, coppe e bicchieri tornarono puliti e splendenti, ruotando elegantemente su loro stessi. e decine di uccellini entrarono volando dalle finestre aperte e ripulirono perfettamente la tavola dalle briciole di pizza che vi erano cadute. Ora che la pancia è piena, ce ne andiamo in altalena. In un posto un po' speciale, che ci aiuta a ricordare. Siamo d'accordo con la casa, dissero insieme a Lia e Kim. Sul prato, sotto le querce millenarie, ci sono altalene comodissime, e sono anche speciali. Dondolarsi al loro ritmo aiuta a entrare nei ricordi. Si diressero tutti verso il prato, dove querce maestose creavano con i loro rami un merletto nel cielo a forma di ombrello. La luce della luna piena filtrava dai rami creando sull'erba un disegno straordinario di luci ed ombre. Le altalene dalle lunghe corde che dondolavano ritmicamente si fermarono per dare il benvenuto al gruppo. Ognuno riconobbe la sua e ci si accomodò percependo un contatto che faceva sentire rilassato e felice non solo il corpo ma anche il cuore. Il ritmo del dondolare divenne più veloce, e quando le altalene raggiunsero la loro massima altezza, all'orizzonte, oltre le valli e le montagne imbiancate di neve, la luce della luna piena illuminò in lontananza l'oceano, che mostrò il suo colore azzurro scuro dall'energia incontaminata. Pim si sentì completamente felice, e guardandosi intorno scoprì che tutti avevano la stessa sensazione. Anche Ximenes e Grisenda se la stavano godendo da matti. Fu proprio Grisenda a rivolgersi a Pim. «Che ne pensi?» gli chiese. «Ti piace questo gioco?» «Moltissimo. Vorrei farti una domanda anch'io. Avete detto che siete le mie guide. Che vuol dire?»